Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, in programma abbiamo di dirvi qualcosa in materia di smemoratezza, sul telefono poi che piange sempre due volte, e poi parleremo della sindrome di Titone.